Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia della festa della liberazione. In realtà vorremmo che fosse anche una liberazione per molti, moltissimi ascoltatori che ci scrivono. Anche oggi dedicheremo uno spazio alle lettere che stanno arrivando. Tra l'altro ci ha scritto un avvocato di Equitalia, cioè che difende Equitalia a Napoli, che conosceva molto bene la vittima, o meglio il suicida di ieri, che aveva già tentato il suicidio, l'uomo che poi ieri a Napoli, al Vomero, Diego Peduto si è lanciato dal balcone, aveva già tentato lunedì scorso. Il motivo sembra l'angoscia per le cartelle di Equitalia dalle quali era gravato, ma ripeto, nella seconda ora del programma avremo ospite un avvocato che a Napoli difende Equitalia ma ha deciso di rinunciare al mandato, e ci spiegherà anche perché. Quando l'abbiamo contattato ha detto che era stufo di sentirsi un boia e un verme, cito testualmente le sue parole, nei confronti dei casi in cui lui era l'avvocato di Equitalia, non l'avvocato del soggetto a cui Equitalia contesta alcuni pagamenti. Secondo aspetto di cui tratteremo, la Gran Bretagna. A sorpresa oggi il dato sul PIL britannico, è una prima stima, va in recessione tecnica, -0,2%, dico a sorpresa perché tutti si attendevano una Gran Bretagna in leggerissima crescita, diciamo stagnazione, +0,1%. Sarà interessante analizzarlo, anche perché la Gran Bretagna è fuori dall'euro, quindi ha una banca centrale che può fare quello che vuole, può stampare moneta, garantisce in ultima istanza sulle banche, cioè la classica banca centrale, tutto ciò che la BCE non può per statuto e volontà tedesca fare. E quindi vedremo quali sono poi le linee di indirizzo prese dalla Gran Bretagna. Il Premier Cameron e anche il cancelliere dello scacchiere hanno comunque ribadito la linea del rigore, l'austerity, tagli ai ministeri, ma non solo. Parleremo poi degli infortuni sul lavoro, il dato di oggi, un'intervista anche al responsabile per la Confindustria della sicurezza sul lavoro. C'è una campagna importante che sto toccando varie sedi in Italia. E ancora la borsa. Allora, la borsa va bene oggi, è +2,82%, a questo punto il recupero c'è tutto, visto il rialzo di oltre il 2% di ieri e quello di oggi, il recupero rispetto al lunedì post elezioni francesi e crisi del governo olandese. Bene anche Parigi, +2,2%, Francoforte +1,70%, Londra invariata invece, e l'America guadagna lo 0,56%, l'euro a quota 1,32 sul dollaro. In forte recupero oggi i bancari, la Popolare di Milano +8,70%, Ubibanca +8,5%. Oh, sarà un caso, ma quando i giorni sono festivi, quindi le banche sono chiuse e possono operare solo i professionisti, assistiamo sempre a variazioni molto interessanti. Comunque +7,24% Finmeccanica, +7,15% Mediaset, +6,60% Unicredit, +6,12% Fiat Industria, +5,70% Banca Popolare, +4,90% Monte dei Paschi, +4,80% Atlantia, +4,20% Exor, +4% di Assor in come Intesa San Paolo. Tenaris, Fiat e Buzzi Unicem guadagnano il 3,80%, il 3,5% al rialzo di Azimut di Telecom Italia, il 2,60% quello delle generali. Chiudiamo come sempre in questi casi con chi guadagna più del 2%, e si chiamano Popolare Emilia Romagna +2,5%, Autogrill +2,30%, Mediolanum e Mediobanca +2,1%, e infine Pirelli e Saipem +2%. L'unico titolo negativo è Prismian -1,70%, e invariati Enel e A2A. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Oro in aumento, 1641 dollari l'oncia, petrolio stabile a 103 dollari al barile. L'ENI oggi ha firmato con Rosneft, che è il primo produttore petrolifero russo, un accordo per valorizzare in maniera congiunta, quindi assieme ai russi, i giacimenti di gas e petrolio nel mare di Barents, nell'Artico e nel Mar Nero. L'accordo è stato siglato oggi a Mosca dai numeri uno delle due società, ossia per l'ENI Paolo Scaroni e per Rosneft da Eduard Kudaitanov, alla presenza del premier Putin. Prevede investimenti per oltre 100 miliardi di dollari, o meglio 2 miliardi di dollari gli investimenti in ricerche geologiche, frutto della firma di oggi, e poi quelli per valorizzare le ricerche geologiche supereranno i 100 miliardi di dollari, 50-70 miliardi nel mare di Barents e 50-55 miliardi per il Mar Nero. E sempre in tema di petrolio, o meglio di compagnie petrolifere, c'è una notizia che obiettivamente lascia sconcertati. Io spero che Amnesty International, USA, perché quella è la fonte, si sia sbagliata. Ma insomma, la Shell, colosso petrolifero mondiale, no? Anglo-olandese, ha proposto un risarcimento alla comunità Bodo, una popolazione che vive sul delta del Niger, per le devastazioni causate dalle trivellazioni nel 2008. La Shell dichiara di aver riversato nel delta del fiume Niger 1640 barili di petrolio, che già non è poca cosa. Nuove rilevazioni indipendenti dimostrerebbero invece come la quantità di petrolio dispersa oscillerebbe tra i 100.000 e i 300.000 barili. E già qui, insomma, non ci siamo. La Shell dice 1000 barili versati nel delta del Niger, le nuove rilevazioni dicono 100.000, cioè 100 volte di più. Ma la cosa più interessante è il risarcimento che la Shell ha proposto alla comunità Bodo che vive sul delta del Niger, comunità appunto di indigeni. 50 sacchi con confezioni di riso, zucchero, fagioli e pomodori. 50 sacchi di riso, fagiolo, zucchero e pomodori per un gruppo, cara la mia Shell, che l'anno scorso ha avuto 6 miliardi e mezzo di profitti offriti a una comunità che avete invaso di petrolio, fossero anche solo 1640 barili. 50 sacchi di riso, zucchero, fagioli e pomodori. Andiamo bene, proprio bene. Un po' di vergogna, no, eh? A meno che non sia una nuova, mi viene in mente adesso così, una nuova policy della Shell, pagare anche i manager, i top manager pagatissimi in sacchi di riso, zucchero e pomodoro. Questo potrebbe essere interessante, nel senso che allora se questi sono i risarcimenti e i bonus, entriamo in una nuova fase, nell'era del baratto. Magari abbiamo capito male noi, eh? Allora, la Grecia ha completato lo swap, quindi la ristrutturazione del debito, il 96,9% ha aderito dei privati. Sapete che il debito greco è stato rivisto, cioè praticamente è dimezzato. Chi vantava un credito dalla Grecia di 100 euro si ritrova con 55 euro in tasca, mentre Berlino sta cercando un asse con Roma sulla crescita. Il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert infatti ha reso noto un incontro fra l'entourage della cancelliera tedesca Angela Merkel e quello di Mario Monti, avvenuto in settimana per promuovere iniziative concrete per la crescita nel prossimo Consiglio europeo di giugno. La sensazione, ma è solo una sensazione, è che in Germania lentamente abbia capito e stia realizzando il senso di accerchiamento. L'Olanda viene meno come partner virtuoso perché crolla il governo. La Francia, se vince Olanda, non sarà più la stampella d'appoggio della politica tedesca, e forse si muove per cercare un asse con Roma, visto che Monti in Europa e anche in Germania gode di grande pregio. Allora, un ascoltatore che spesso interviene, noi lo apprezziamo, lo abbracciamo forte, perché scrive su Facebook, scrive sugli SMS, dice: ma i conti online sono aperti, è riferito alla borsa. Ha ragione, ci mancherebbe. Diciamo che è un po' diverso per molti investitori operare online o andare in banca. Io mi sono limitato a dire che le banche sono chiuse, spesso vediamo che nei giorni di festività per il paese, ma i mercati aperti, i movimenti sono molto interessanti. Chiuso perché non voglio, chiudo perché oggi abbiamo tanti temi. Andiamo avanti. Intanto lo sfidante di Sarkozy, e mi riferisco a François Hollande, in testa nella gara per le presidenziali francesi, ha detto: non voglio creare conflitti con Angela Merkel, ma nemmeno nascondere le differenze nelle nostre posizioni. Con Angela Merkel, se verrò eletto, aprirò discussioni ferme e amichevoli. Intanto la crescita economica in Germania continua a essere più forte anche del previsto. Crescerà dell'1,6% nel 2013 la Germania e 1,07% per quest'anno. L'export farà più 3% quest'anno e più 5% nel 2013. I consumi interni andranno relativamente bene anche in Germania, più 1%, non è un gran dato, cioè anche in Germania la crescita è quasi tutta guidata dall'export, però più 1% quest'anno e più 1,3% nel 2013. E poi un altro tema che tratteremo, l'OCSE fotografa un dato che già ieri avevamo illustrato in altro modo, ossia l'Italia è in fondo alla classifica dei 34 paesi dell'OCSE quanto a salari. Ora, prima o poi dovremmo riflettere su questo, perché cioè, continuare a dire sono due cose diverse. I salari in Italia sono tra i più bassi, anzi sono i più bassi, anche più bassi della Spagna e dell'Irlanda e di tutti i big europei. Pensate che secondo l'OCSE il salario netto medio di un singolo italiano senza figli a carico è di 19.147 euro contro una media, salario netto, contro una media OCSE di 20.600 euro. In Spagna siamo a 21.100 euro, in Francia 22.600, in Irlanda 24.000, in Germania 25.000 euro, in Inghilterra 29.000, in Italia 19.000. E voglio dire, questi sono stipendi. Allora, non si può ogni volta dire, ma poi c'è il nero, ho capito, ma chi è lavoratore dipendente il nero non lo fa, e evadere non può. Quindi, continuare a dire che il costo del lavoro in Italia è troppo alto non significa dire che i salari sono troppo alti. I salari sono troppo bassi in questo paese. È molto alto il costo del lavoro del dipendente per l'imprenditore o per chi lo assume. Perché? Perché abbiamo una marea di tasse e anche contributi, e da lì la necessità, che spesso invochiamo o evochiamo, per il governo Monti di andare a tagliare il cuneo fiscale, ridurre le tasse sui redditi di chi le tasse le paga. E comunque restiamo sesti come classifica per il peso del fisco sui salari, ci ha superato l'Ungheria quest'anno. Insomma, restiamo sempre molto alti. Ne parleremo più avanti, questo è un altro tema del programma, perché ieri è uscito il dato sulla differenza tra inflazione e aumento dei salari, cioè aumento dei prezzi e aumento dei salari. La differenza è massima da quando esiste la serie storica, dal 1984. L'inflazione ha fatto più 3,3, i salari hanno fatto più 1,2. Vuol dire che ci sono 2 punti percentuali in termini reali di potere d'acquisto che si è perso, e la forbice così alta non si vedeva dal 1984. E poi due notizie che non faranno piacere. Allora, nuove complicazioni in vista per l'IMU. Anche nei comuni più generosi, quelli che hanno già deliberato per la prima casa un'aliquota più favorevole rispetto al 4 per 1000 o addirittura l'esenzione dell'IMU per la prima casa, si dovrà pagare l'acconto a giugno con questa aliquota, salvo poi il conguaglio con rimborso a fine anno. È un pasticcio, lo dice anche il Presidente della Commissione parlamentare per l'anagrafe tributaria, Maurizio Leo del PDL, nel senso che senso ha pagare un acconto che magari il comune poi non vuole, che mi devi ridare a fine anno, non me lo far pagare, basta. Ma dove siamo? A Bisanzio negli ultimi anni? E poi è saltata la tariffa per quello che riguarda l'RC auto, la tariffa auto unica nord-sud, e quindi questo con buona pace degli automobilisti virtuosi del sud, che si vedono penalizzati, di tutta la città del mezzogiorno. Cioè, sostanzialmente le polizze RC auto, se tu abiti al sud, sono più alte a prescindere rispetto al comportamento di un automobilista del centro-nord. No, allora, l'articolo del decreto liberalizzazioni puntava a eliminare queste enormi disparità di prezzo. Però è stato reinterpretato, secondo cui una ragionevole e legittima interpretazione della norma dovrebbe includere nelle differenziazioni tariffarie quelle legate alle oggettive differenze delle condizioni di rischio rilevate nei singoli territori. Ma che cosa vuol dire? È ovvio che al sud c'è una criminalità più alta a Napoli rispetto ad Aosta, però l'automobilista virtuoso napoletano deve pagare la stessa RC auto che paga l'automobilista virtuoso aostano. Hai visto come sto arrabbiando? Raccontiamo la crisi degli altri. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, una buona notizia, infatti qui l'applauso partirà vero, non ironico come spesso facciamo, arriva da Padova. Era rimasto senza lavoro 3 anni fa, si è reinventato una professione, ha aperto un centro di massaggi specializzato nel trattamento delle patologie fisiche legate alla depressione. Però non ha mai dimenticato la disperazione che aveva vissuto da cassa integrato. Si chiama Marco Marangoni, ha 34 anni, un ex operaio di Padova, e ha aperto uno studio Shatsu a Mana, studio Shatsu Mana di Padova. Qual è la notizia? Che sta offrendo gratis ai disoccupati trattamenti di carattere Shatsu e anche legati a tutte le patologie fisiche. Complimenti, complimenti, finalmente qualcuno che decide, riceviamo molte mail su questo, di dare una mano, di non aspettare che arrivi qualcun altro. Complimenti quindi a Marco Marangoni. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E mentre il santuario di Molta di Livenza, nell'alta Marca Trevigiana, diventa un rifugio per gli imprenditori stressati, praticamente il prete, padre Alfonso Cracco, guardiando il santuario, racconta che da qualche mese arrivano al santuario molti piccolissimi imprenditori del legno, del mobile arredo, della meccanica, del tessile. Dicono: siamo senza bussola, non c'è un punto di riferimento nella politica che possa darci fiducia, si sentono abbandonati, e anche qualcuno ha detto di aver pensato al suicidio, e chiedono di tutto, pensate un po', una preghiera, un'intercessione, addirittura una preghiera del padre perché l'imprenditore sta andando in banca per un fido. Dicevo, mentre questa è la situazione nell'Italia, che piaccia o non piaccia, l'Italia che produce e che crea ricchezza, sentite un po' che cosa ha combinato l'Agenzia Spaziale Italiana, tant'è che se ne è occupato anche il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca, Francesco Profumo. Ora, erano già noti gli sprechi dell'Agenzia Spaziale Italiana, viaggio in California costato 1 milione di euro, ma come l'avete fatto con lo Space Shuttle, il viaggio in California, per far seguire in diretta a militari, politici, giornalisti i lanci nello spazio? Devo dire che su questo una riflessione va fatta anche nella mia categoria, no? Nepotismi, conflitti di interesse dell'agenzia diventata con la presidenza di Enrico Saggese una dépendance decisionale di Finmeccanica. L'ultimo episodio, grande Saggese, il costo della nuova sede romana, perché giustamente l'Agenzia Spaziale Italiana non poteva stare nella vecchia sede, 90 milioni di euro, oltre il doppio della previsione del 2005, 5 volte l'ipotesi basata sull'originale progetto dell'architetto Fuxas. E non bastasse questo, c'è un palazzo che costa alla fine 5 volte più del previsto, la Corte dei Conti si è abbastanza seccata sulla modalità delle nomine nell'Agenzia Spaziale Italiana, tant'è che appunto il Ministro Profumo ha scritto una lettera a Saggese. Sarebbe opportuno, scrive il Ministro Profumo, che per quanto attiene le nomine degli organi di governance della società, le designazioni avvenissero tra soggetti diversi da quelli che fanno già parte del consiglio di amministrazione, e cioè se qualcuno deve essere un controllore interno non puoi prenderlo dal consiglio di amministrazione. Comunque, Enrico Saggese, sia per la missione in California, 1 miliardo di euro, che per il costo della nuova sede, che per la governance interna, va il nostro applauso di oggi. E con molto affetto un invito anche a esplorare altri mondi, galassie spaziali, farsi un giro, perché insomma, se quello che serve l'Agenzia Spaziale Italiana è così far lievitare i costi impropri, non ne abbiamo bisogno, abbiamo già tutto in questo paese. Adesso però parliamo di Gran Bretagna. sì, parliamo di Gran Bretagna perché oggi dall'Inghilterra è arrivato un dato sul PIL britannico nel primo trimestre a sorpresa in negativo. Sarebbe entrata in recessione la Gran Bretagna, meno 0,2%, double deep recession, perché l'ultimo trimestre 2011 ha fatto meno 0,3% e ha fatto adesso un meno 0,2% anche nel primo trimestre del 2012, contrariamente all'attesa di un più 0,1% in un paese che è fuori dall'euro, quindi non ha i vincoli dei conti pubblici che abbiamo noi e ha un deficit che viaggia quasi tre volte quello italiano, ossia all'8,3%, cioè in Europa nell'area euro un deficit così non sarebbe tollerato. Sentiamo il premier David Cameron che dice: i dati sono deludenti, nessuna scusa e nessuna mistificazione. These are very, very disappointing figures. I don't seek to excuse them. Sono dati molto, molto deludenti. Non voglio cercare scuse. Voglio essere assolutamente chiaro. Questo governo non ha un atteggiamento di arrendevolezza nell'affrontare quella che è una situazione molto seria e che, onestamente, lo sta diventando sempre di più. Penso che sia molto difficile una ripresa dalla crisi più severa che si ricordi, accompagnata anche da una crisi del debito. Le nostre banche sono piene di debiti, le nostre famiglie hanno troppi debiti, il governo ha troppi debiti. Dobbiamo rimettere in equilibrio la nostra economia. Abbiamo bisogno di un settore privato più forte. Occorre aumentare l'export e gli investimenti. È un processo che comporterà fatica, dolore e molto lavoro. Ma noi non modificheremo il nostro piano di austerità e continueremo con tassi di interesse bassi. Faremo tutto il necessario per favorire la competitività e la creazione di occupazione nel nostro paese. Ammette quindi dati deludenti. Cameron, siamo in collegamento con il corrispondente del Sole 24 Ore dalla Gran Bretagna, Leonardo Maisano, buonasera. Buonasera a voi. E buon 25 aprile anche a te, anche se lì chiaramente non c'è nulla da festeggiare il 25 aprile. Dati deludenti, abbastanza sorprese, però quello che ha detto Cameron, che abbiamo sentito, che poi ha detto anche il ministro dell'economia, il cancelliere scacchiere Osborne, è chiaro, noi andiamo avanti sulla strada presa, austerità, taglia la spesa pubblica, taglia gli sprechi, tassi di interesse bassi, politica quindi monetaria accomodante. Sì, esattamente questo. Probabilmente la politica monetaria accomodante verrà rivista, cioè nel senso che oramai si ha la sensazione da qualche settimana che la Banca d'Inghilterra non intenda fare più allentamento quantitativo come ha fatto negli ultimi anni per sostenere in qualche cioè stampare moneta di fatto. Di stampare moneta di fatto, esattamente, per sostenere l'economia, perché la sensazione che maturava in queste settimane, in questi giorni, è che in realtà l'Inghilterra è già in una fase di lenta crescita, di uscita dalla fase più grave di rallentamento, di recessione. Questo dato dice il contrario. In realtà molti economisti sono sorpresi e incominciano a contestare la correttezza dell'Ufficio Nazionale di Statistica, perché altri indicatori che vengono proprio dalle imprese, dal territorio, dicono che in realtà la situazione non è così negativa come questo dato metterebbe in evidenza. Ora è un dato provvisorio, c'è la possibilità di qualche correzione, ma comunque il discorso non cambia. Se adesso uno 0,2, se anche fosse corretto a meno 0,1, l'Inghilterra è comunque tecnicamente in una fase di recessione. È quantomeno di stagnazione. Che va migliorando. È in un quadro che va migliorando perché sta migliorando la prospettiva sugli Stati Uniti o per motivi tra virgolette endogeni, cioè interni? Beh, per motivi interni, perché l'Inghilterra ha sempre avuto mano libera rispetto ai paesi dell'Eurozona per fare la politica monetaria di cui dicevamo prima, e per il massiccio taglio alle spese, che qui è stato veramente profondo, sì, che il governo conservatore ha avviato subito dopo le elezioni. Poi è inevitabile, come dire, che le liaison economiche tra Inghilterra e Stati Uniti si sentono e che quindi una ricaduta del traino americano in Inghilterra arriva un po' prima che nel resto d'Europa. Ecco, spendiamo una parola sui tagli alle spese della pubblica amministrazione, perché qua in Italia abbiamo visto aumento delle pensioni, aumento, anzi, maggiori controlli fiscali, ben vengano, poi ne parleremo, però andare a beccare i grandi capitali, non i piccoli artigiani, ma dicevo, e riforma del mercato del lavoro, tentativo di liberalizzazioni, non abbiamo visto un granché sui tagli della pubblica amministrazione, tranne, devo dire, come esempio, il fatto che per esempio Mario Monti e il suo governo abbiano tagliato del 90% il costo dei voli di Stato, anche questo va bene, prima venivano usati a man bassa dal precedente governo, però dico, l'Inghilterra su questo invece il segnale l'ha dato subito, cioè se devono pagare, pagano tutti, non è che paghi solo una categoria sociale. No, al di là dei tagli su auto blu, sì, che comunque come esempio servono. Esatto, che comunque conta, ma al di là di questo, la spending review che noi stiamo avviando adesso, in Inghilterra il governo Cameron l'ha avviata subito, a 3 mesi dalle elezioni è partita una spending review radicale che ha tagliato i bilanci dei ministeri in modo profondo. Tutto questo, ricordiamo, avrebbe dovuto portare a 500.000 di posti di lavoro persi nella pubblica amministrazione, che nei progetti di Cameron avrebbero dovuto essere bilanciati da almeno 750.000 posti di lavoro creati dal settore privato attraverso outsourcing e quindi attività che sono adesso nella mano pubblica che finirebbero in qualche modo in gestione a privati e altre forme di incentivi economici. Questa grande scommessa in realtà non ha funzionato ancora in questo modo. I numeri della disoccupazione della pubblica amministrazione sono stati molto più elevati e il settore privato non è riuscito ancora a creare altrettanti posti. Però la via è quella. Se non ci fosse stata, certo, come dire, la crisi dell'Eurozona, sarebbero riusciti più agevolmente. Ma anche perché anche l'Inghilterra è ben legata nel suo export all'area euro. Certo. Devo dire, sì, la cosa paradossale, abbiamo avuto ospite che chi ha fornito tutta la parte informatica per il governo britannico per fare la revisione della spesa pubblica, cioè per tagliare la spesa improduttiva, è una società italiana che si chiama Bravo Solution. Questa lo dico anche al ministro Giarda, noi la stiamo aspettando sempre con ansia, vediamo se ce la facciamo anche noi a fare la spending review o chiamiamo la revisione di spesa, chiamiamolo taglio degli sprechi, delle inefficienze, chiamatela anche Maria, ma fatela. Grazie Leonardo Maesano, meteo, pubblicità e poi la borsa. ...17:40, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di borsa e poi arriveremo anche alla sicurezza sul lavoro e ai dati sui salari italiani, all'ultimo posto i salari italiani nella classifica dei paesi OCSE. C'è una notizia però appena battuta dall'agenzia, la fonte non è da poco, è il presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, lo ricorderete forse, quello che litigò con l'allora presidente del Consiglio Berlusconi, che gli diede del capò, insomma venne fuori un disastro quella volta nel Parlamento Europeo. Comunque lui è presidente adesso del Parlamento Europeo e ha aperto il suo discorso oggi, poco fa, partecipando ai lavori del Collegio della Commissione, dei commissari della Commissione Europea, dicendo questo: per la prima volta nella storia il collasso dell'Unione Europea è diventato uno scenario realistico. I rischi vengono dagli attacchi all'euro, dalla xenofobia crescente, dalle minacce alla libera circolazione garantita da Schengen. Il meccanismo di controllo della Commissione sui bilanci nazionali poi crea un deficit di democrazia, lo deve dire anche la sua cancelliera Merkel, che l'ha voluto. Comunque, visto che dire che per la prima volta nella storia il collasso dell'Unione Europea è uno scenario realistico ci sembra un po' una gufata, la campanella oggi la suona il nostro gufo. Che invece, campanella invece non da gufo, perché la borsa è andata bene, più 2,90%, Parigi più 2%, Francoforte più 1,70%, Londra più al palo più 0,20%, America più 0,60%. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Radio Cori, Sole 24 Ore. Mi sembra che a questo punto però il recupero c'è stato tutto rispetto a lunedì, perché ieri 2,2%, oggi 2,91%. Andrea, una domanda. Sì, sì, sì, certamente, certamente oggi abbiamo anche visto diciamo recuperare bene quei titoli che nell'ultima settimana erano stati molto penalizzati, quindi diciamo una borsa che ha saputo, diciamo così, recuperare quello che aveva perduto negli ultimi giorni, tant'è vero che proprio i più penalizzati l'ultima settimana oggi sono mostrati come migliori, tra cui le banche e naturalmente poi Finmeccanica penalizzata le note vicende, ma soprattutto i bancari milanesi oggi hanno messo a segno un bel riscatto. Ancora migliori le banche oggi, nel senso che Pop Milano più 9,31%, Unicredito più 7%, anzi ve lo do per esattezza, Unicredito più 6,75%, UbiBanca più 8,30%, Banco Popolare più 5,81%, Monte dei Paschi più 4,60%, Inter San Paolo più 3,80, nel giorno in cui le banche erano chiuse, quindi o operavi online, ma diciamo, o se no, sono sempre rialzi interessanti, quando lo ripeto ancora una volta, quando i giorni sono festivi ma la borsa è aperta. Andrea. Sì, oggi per le banche sono arrivati molti segnali, diciamo così, di fiducia. Innanzitutto il segnale di fiducia è arrivato dalle parole del presidente della BCE Mario Draghi, che ha anche invocato un patto per la crescita, no? Dopo un patto fiscale, stabilizzazione fiscale. Un'indicazione positiva è arrivata dai dati della stessa BCE, per il quale è migliorato nettamente l'accesso al credito nell'Eurozona nel primo trimestre, mentre altre indicazioni positive di carattere non macro ma di carattere più specifico di singole società come la spagnola BBVA, che ha fornito i conti trimestrali, hanno dato un supporto importante al settore bancario. Ne ha approfittato soprattutto Milano, ricordiamo, molto esposta sui bancari, perché l'indice europeo di bancari ha fatto più 1,8, mentre a Milano abbiamo visto le performance che tu hai indicato. Anche chi ha guadagnato di meno nel settore bancario come Mediobanca ha guadagnato l'1,7% e così la Biper più 2,8, Intesa San Paolo più 3,7, quindi una bella reazione del settore bancario per i motivi che dicevamo. Ancora tra i titoli segnalo, oltre al mondo bancario, il rimbalzo di Finmeccanica, che diciamo nel ciclone delle inchieste giudiziarie di nuovo, però più 7,43%. Sì, un bel rimbalzo, aveva già iniziato ieri con una performance inferiore al 2%, oggi un bel recupero. Finmeccanica l'ultima settimana aveva perso il 13,5%, da questo punto di vista per gli operatori si tratta soprattutto di una serie di ricoperture consistenti, i volumi non sono stati eccessivi per quanto riguarda Finmeccanica, 11,5 milioni di pezzi trattati, una serie di ricoperture in attesa di capire quel che ne sarà dell'amministratore delegato e presidente Giuseppe Orsi, ma quello che sarà in generale della società. C'è da dire che dal punto di vista industriale è stata anche positiva l'indicazione che è arrivata da Boeing, che ha messo a segno nel primo trimestre una crescita di quasi il 60% degli utili, e questo ha dato un supporto al settore, e Finmeccanica ha potuto così approfittarne per un bel rimbalzo oggi. Ancora, vorrei segnalare Fiat, tutte in recupero oggi, ma soprattutto sulla parte camion e trattori, cioè Fiat Industrial più 7%, Exor più 4,43%, Fiat Auto invece fa più 3,50%, la risposta dopo il traffico 349-238-6666 per i vostri sms. Andrea Fontana, Fiat. Sì, Fiat Industrial ha pubblicato i conti del primo trimestre nelle ultime battute della giornata di borsa, con conti che sono stati sopra le attese, sia per quanto riguarda l'utile della gestione ordinaria, che è cresciuto di quasi il 60% a 435 milioni, e sia per l'utile netto più 81% a 207 milioni. Le stime degli analisti erano, per quanto riguarda l'utile netto, 140 milioni, quindi gli obiettivi sono stati decisamente superati, ma già nel corso della giornata i risultati che arrivavano dagli Stati Uniti, cioè da CNH, avevano dato un forte sostegno al titolo, come tu hai detto più 7% Fiat Industrial, Exor la holding ha guadagnato il 4,5%, Fiat un po' più lenta, più 3,5%, ma comunque una performance che la riporta molto vicina ai 4 euro per azione. Migliori e peggiori in assoluto, Telecom Italia Media più 16%, CDC Point più 12%, e SEAT pagine gialle sulle ordinarie più 10% come Eurotech, peggiori la Roma Calcio meno 4,80%, la Lazio meno 4,20%, i KF meno 3,90%. Su Telecom Italia Media, insomma, ieri l'amministratore legato Stella è tornato a parlare di un'entrata, della possibile entrata di un nuovo investitore, ecco perché il titolo è così forte, più 16,6%. Grazie Andrea Fontana. E adesso apriamo una lunga pagina sul lavoro, partendo da chi per il lavoro muore, passando poi a chi invece muore per gli infortuni, a chi vede pagare è pagato il suo lavoro troppo poco, ossia i salari, e poi a chi il lavoro l'ha perso, e questo crea disperazione. Iniziamo con i dati di oggi sugli infortuni sul lavoro. Sono per fortuna in calo, sono sempre inaccettabili, cioè 930 morti sul lavoro nel 2011 sono sempre inaccettabili, però sono sotto il muro anche psicologico dei 1000, sono calati del 4,5% rispetto all'anno prima, gli infortuni poi sono scesi del 6,5%. Ieri ne abbiamo parlato con Sammy Gattegno, che è il presidente del Comitato Tecnico Sicurezza di Confindustria, chiedendogli quali siano le iniziative messe in campo per migliorare i livelli di sicurezza sul lavoro. Noi in questo, l'abbiamo chiamato pomposamente Roccio, ma comunque un giro per l'Italia di 38 tappe dal nord al sud, tutti i posti, abbiamo cercato, che era destinato agli imprenditori e ai manager, abbiamo parlato con la loro lingua, cioè abbiamo cercato di farli capire che la sicurezza conviene anche sotto il profilo economico. In ogni tappa c'erano due aziende locali che proprio con cifre alla mano dimostravano come avevano fatto certi investimenti che avevano dato risultati positivi, e perciò ecco, questo abbiamo trovato tanta, come dire, sensibilità dell'imprenditore, anche perché vedono i fatti concreti, ecco. Ripeto, vedo già i messaggi al 349-238-6666. La sicurezza, le norme di sicurezza sul lavoro, così come la legalità in senso più lato, sono obblighi di legge. Non è che stiamo dicendo ma mi conviene o non mi conviene. Detto questo, detto il fatto che commetti un reato se non rispetti le norme, né di sicurezza e anche della legalità più in generale, oltre al fatto che non commetti un reato, c'è anche, tra virgolette, un vantaggio economico. È come dire, se mi fa passare l'esempio, se tutti rispettano il codice della strada, oltre che non commettere un reato, hai anche un traffico che scorre meglio, perché se tutti rispettano i semafori, non parcheggi in doppia fila, hai un modo più civile di convivere, conviene allo stesso automobilista, ripeto, oltre che rispettare un codice, quindi non commettere un'infrazione. Sta migliorando un po' la situazione, Gattegno? È migliorata parecchio, da alcuni anni il numero di incidenti sta scendendo. Ci auguriamo che questo continui anche nel futuro e speriamo che queste, diciamo, queste iniziative che abbiamo fatto, che sono state, come dire, anche impegnative sotto tutti i punti di vista, possano portare qualche piccolo vantaggio. Noi insistiamo in queste iniziative, in questo lavoro di sensibilizzazione, anche se io ritengo che se si potessero formare anche i ragazzi a scuola su questo tema importante sarebbe estremamente positivo, perché dà dei risultati, certo a medio e lungo termine, ma sicuramente concreti. Allora, adesso ci arriviamo. Stanno calando, ma sono ancora troppo alti sia gli infortuni che i morti. Questo va detto, nel senso che qualunque morto, anche un morto, è inaccettabile. Sono stati nei primi sei mesi del 2011 428 i morti sul lavoro, con un calo dell'1% rispetto a 431 morti dell'anno prima. Sono calati in maniera più consistente gli infortuni sul lavoro: da 387.000 nei primi sei mesi del 2010 si è scesi a 372.000, quindi 15.000 infortuni in meno. C'è chi dirà c'era meno lavoro, in realtà no, nei primi sei mesi del 2011 l'economia andava ancora nel ciclo positivo. Che cosa si può fare in più, Gattegno? Poi arriviamo anche alla formazione delle scuole. Che cosa dovete fare voi come Confindustria in primo luogo? Noi appunto, noi cerchiamo, visto che noi rappresentiamo gli imprenditori manager, insomma, delle aziende, di sensibilizzare loro sotto questo punto di vista, e direi che insomma lì si va avanti, diciamo, in fatti positivi. Consideriamo però che la metà vengono per le strade di questi incidenti. Ecco, depurati dagli incidenti che arrivano per le strade, che quelli cosiddetti in itinere, il numero è sicuramente meno grave di quello che c'è in altri paesi paesi europei. Certo, perché ecco, da un punto di vista normativo, e a mio avviso anche correttamente, se tu hai un incidente nel momento in cui ti rechi al lavoro, è un incidente sul lavoro. Certo è che dal punto di vista poi concreto, no, una cosa è dire che hai fatto un incidente in auto mentre andavi al lavoro, altra cosa è dire che sei caduto da un'impalcatura perché le norme di sicurezza non erano rispettate, oppure sei inciampato in un altro perché c'erano degli attrezzi in giro. Cioè sono due cose diverse, la sicurezza nel luogo di lavoro non può essere la sicurezza nel tragitto stradale che ti porta lì. Però essendo un'assicurazione INAIL, lei che esatto, le certifica, chiaramente le deve indennizzare, le conta, ecco. Sì, sì, no, le conta, perché tu ti stai recando al luogo di lavoro, vale anche per noi. Se io, a me capita qualcosa mentre sono in trasferta per lavoro, è un incidente sul lavoro, ma non è certo colpa nel sole 24 ore se scivolo su una scala mobile di una stazione metropolitana, diciamo. Assolutamente così. No. E quindi, pur in una situazione di livello comunque inaccettabile, 930 morti, c'è, se si vuole vedere il bicchiere non mezzo pieno, quella poca parte piena che è, c'è un miglioramento, c'è un calo rispetto alle morti sul lavoro che sono state nel 2010 973, quindi 43 morti in meno. Minuti, inizia un'altra puntata, una seconda parte di un'altra puntata di Focus Economia. Ultima, nell'ultima parte parleremo anche e soprattutto delle lettere che sono arrivate all'indirizzo Disperati Mai, con un cotè particolare perché c'è scritto anche un avvocato che ha intenzione, come ricordavo in apertura del programma, di rinunciare a difendere Equitalia. È un avvocato di Napoli che conosceva bene l'ultimo caso, purtroppo quello registrato ieri. Vorrei però continuare con questa, se mi permettete il termine, trilogia sul lavoro. Ci siamo occupati prima del GR della sicurezza nel mondo del lavoro, il dato è ancora un dato grave, ripeto, 930 morti nel 2011, per fortuna un dato grave in calo rispetto al 2010, quando furono 973, in calo anche gli infortuni da 776.000 a 726.000. Adesso vorrei occuparmi di lavoro inteso come quanto viene retribuito il lavoro, perché c'è un rapporto dell'OCSE che conferma quanto ci dice l'Istat da almeno 2-3 mesi. L'Istat fotografa un divario tra salari e prezzi che è il massimo e ai massimi dal 1984. E invece oggi l'OCSE dice, tra i 30 paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'Italia è in coda alla classifica, ossia ha i salari più bassi anche di quelli spagnoli. Il salario netto medio di un single senza figli a carico in Italia infatti è di 19.147 euro, salario netto secondo l'OCSE. In Spagna invece è di 21.000 euro, in Francia di 22.600 euro, in Irlanda di 24.200 euro, in Germania di 25.000 euro e in Inghilterra addirittura 10.000 euro in più rispetto all'Italia, 29.643 euro. Ora uno potrebbe dire, vabbè, ma sono paesi in cui la vita costa di più. Non è vero, lo sapete che perlomeno rispetto al centro-nord Italia non è vero che la Francia costi di più, che anche la Germania aveva un costo della vita così alto e a maggior ragione Irlanda e Spagna. Se si considera lo stipendio lordo, cambia poco, l'Italia è appena al di sotto della media, però è indubbio che se prendiamo lordo, diciamo, siamo più vicini agli altri paesi e siamo più vicini alla media europea. Precipitiamo nella classifica quando prendiamo salario netto e questo si chiama cuneo fiscale, cioè la differenza tra quanto tu costi al tuo datore di lavoro e quanto invece percepisci in busta paga. Siamo anche sesti a livello europeo del quanto appeso delle tasse, nei paesi membri dell'OCSE, scusatemi, non a livello europeo, dei 30 paesi dell'OCSE siamo i sesti, dopo Belgio, 55% il peso del fisco, Germania 49,8, Ungheria 49,4, Francia 49,4, Austria 48,4 e l'Italia ha un peso fiscale in busta paga del 47,6%. Io però vorrei sapere se poi si tiene conto anche di tutto il resto della tassazione in Italia, perché le stime che abbiamo noi fanno sì che chi le tasse le paga in Italia arriva a pagare il 55% di carico fiscale. Professoressa Irene Tinagli, che insegna a Madrid all'Università Carlo III, editorialista della Stampa, buonasera. Buonasera. E buon 25 aprile anche a lei. Allora, lei oggi ha scritto sulla Stampa un articolo in cui, diciamo, il cui attacco, un commento, un editoriale, il cui attacco è il seguente: la questione dei salari in Italia non c'entra tanto con la crisi, quindi dal 2007 in poi, né con l'austerità delle manovre del governo Monti. Perché? Perché questo è un problema che ci tiriamo dietro da ben prima, quindi io, come ricordavo anche nell'articolo, già nel 2006-2007 noi eravamo in coda e l'allora governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, lanciò questo allarme in una relazione che fece alla Società degli Economisti Italiani, evidenziando esattamente quello di cui si sta parlando oggi, ovvero il divario che c'è tra salari, l'assegnazione dei salari, della crescita dei salari e parallelamente anche dei consumi, per cui è un problema che evidentemente precede le questioni legate alle crisi internazionale o alle misure di austerità, quindi ha una componente più strutturale, direi. E quando lei parla di componente strutturale, a cosa si riferisce? Ma guardi, i salari, quando si parla di salari pare che si parli di una cosa, come dire, indipendente da tutta una serie di altri fattori che caratterizzano un sistema economico e produttivo, e invece i salari evidentemente sono il riflesso di tanti aspetti legati all'economia di un paese, quindi la struttura produttiva, come funzionano le aziende, il sistema della formazione, l'innovazione tecnologica, l'innovazione anche organizzativa dei modelli di business, per cui ci sono tutta una serie di aspetti legati al sistema di istruzione e produzione dell'economia di un paese che poi si riflettono nei salari, quindi sì, i salari riflettono un sistema che ha dei problemi a prescindere dalla crisi, ecco. Sì, questo siamo d'accordo, però diciamo, il tema del cuneo fiscale è un tema che resta, scrive adesso un ascoltatore, ho una catena di negozi, un dipendente di quarto livello mi costa 30.000 euro lordi l'anno, ma in netto, in busta paga, lui ne vanno 1.100 al mese, e cioè 20, stiamo parlando di praticamente 14.000 euro, mettendoci anche un po' di tredicesima all'anno. Cioè siamo, se va bene, adesso non so quanto sia la tredicesima di questo dipendente, arriviamo a 15-16.000, cioè la metà. Certo, ma guardi che anche questo è collegato, nel senso che, allora, condensando quello che ho detto prima in una parola, abbiamo un problema piuttosto grave di produttività e di efficienza del nostro sistema economico complessivo. E questa efficienza è data, come tra le altre cose, proprio un'efficienza della macchina anche statale, burocratica, che producendo queste inefficienze costa e impone dei costi e delle tasse sempre più alti per mantenersi inefficiente com'è. Quindi, in un certo senso, anche le tasse alte sono legate a questa scarsa efficienza che noi paghiamo in questi termini, con bassi salari, con alte tasse, e finché non ci mettiamo in testa che dobbiamo cambiare la nostra macchina, il nostro motore che produce, è un cane che si morde la coda. Però, voglio dire, allora, i dati sulla spesa pubblica italiana, aspettiamo sempre il ministro Giarda, che con questa spending review ha chiesto anche l'aiuto di un think tank, di un gruppo di cervelli, per carità, però ce la faccia avere. Speriamo che non sia vero quello che abbiamo letto, cioè che si arriverà a risparmiare massimo 5-6 miliardi l'anno. Dico che speriamo di no, perché noi spendiamo 790.000 euro l'anno di spesa pubblica, però una parte, diciamo, è protezione sociale, non andrebbe toccata, mi riferisco alle pensioni e a quant'altro, 317 miliardi. C'è una parte che riguarda la sanità, e lì qualche spreco in più, c'è 118 miliardi, poi paghiamo gli interessi sul debito, sono 70 miliardi, l'istruzione 68 miliardi, ordine pubblico e sicurezza 31 miliardi, difesa 23 miliardi, ma ci sono 132 miliardi che vanno sotto la voce di servizi generali, che vuol dire l'acquisto di beni e servizi. Ora, se si riuscisse a risparmiare il 10%, che non mi sembra una gran cosa, unendo i centri di costo, facendo in modo che i ministeri abbiano un unico centro di costo, sarebbero già 13 miliardi. Secondo lei è ragionevole mettere questi soldi per ridurre il cuneo fiscale? O non ce la facciamo proprio con questi conti? Ma allora, prima dobbiamo vedere innanzitutto con in maggior dettaglio, perché io penso che anche all'interno delle altre voci ci possano essere... È vero. Sicuramente, perché se pensiamo per esempio anche solo che la pubblica amministrazione in generale spende credo qualcosa come 12 miliardi solo di affitti, quando magari anche degli immobili sfitti di cui deve pagare la manutenzione, cioè ci sono delle cose veramente assurde, enti che si duplicano, ci sono veramente delle cose paradossali. Io mi sembrerebbe veramente assurdo che da una spending review, da un lavoro di questo genere, si possano tirar fuori soltanto le cifre che ha detto il ministro Giarda. Mi auguro che si possa fare molto di più e sicuramente una parte di questo deve andare a ridurre il cuneo fiscale, però un'altra cosa, cioè il cuneo fiscale sicuramente è un problema, le tasse sono un problema in Italia perché hanno un livello altissimo, però ci possono essere tanti modi anche di spendere le tasse, per cui anche a parità di tasse, lo vediamo, ci sono dei paesi in Europa che hanno dei livelli di tassazione analoghi, se però dipende dove vanno a finire questi soldi, cioè se a parità di tassazione questa tassazione si riversa in servizi più efficienti, infrastrutture, trasporti, nuove tecnologie, eccetera, sicuramente e non prebende, sono d'accordo con lei. Dipende anche, quindi, cioè, la doppia tenaglia è da ridurre le tasse sul lavoro, ma anche spendere meglio i soldi che si stanno spendendo. Professoressa, la riavremo il nostro ospite, che io adesso devo passare a un tema molto molto delicato, che è il nostro appello e l'aiuto che cerchiamo di dare agli imprenditori in difficoltà così estrema da pensare anche a gesti estremi, e si chiama Disperati Mai. Io la ringrazio e spero di rivederla presto, perché ogni volta con lei il dialogo si fa sempre molto concreto e pragmatico. Grazie quindi alla professoressa Irene Tinagli. Traffico e poi l'ultima parte con le vostre lettere. Ultima parte di Focus Economia, e allora, adesso, come sempre, venerdì l'intera radio è mobilitata per un'iniziativa Disperati Mai, con la maggior parte dei programmi di Radio 24 che si occuperanno di cercare di dare un aiuto a chi ci sta scrivendo le centinaia di mail. Ripeto, noi possiamo solo dare voce, dare anche qualche aiuto, qualche consiglio, ma non fare molto altro. E purtroppo ieri c'è stato l'ennesimo suicidio a Napoli. Sembra, da quello che si è capito, dovuto alle cartelle di Equitalia. Si chiamava Diego Peduto, era già la seconda volta che ci tentava, 52 anni. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe. Tutte le sere sono un eroe e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Sono un eroe. Buongiorno, sono Alessandro, piccolo artigiano del Veronese. Stiamo vivendo un periodo molto critico, stiamo dando il massimo, anche se penso sia tutto inutile, ma nei confronti del mio socio, a cui devo molto, mi sto impegnando, anche perché ho la responsabilità di una famiglia di 2 dipendenti. Ieri sera ho fatto una cosa di cui mi vergognerò per tutta la vita. Mia figlia, 12 anni, mi vede, mi sorride, mi abbraccia forte, mi dice che la sua giornata è stata splendida e vuole raccontarmela. Mi chiede pure la tua, papà, com'è stata? La guardo e lì scoppio a piangerla in faccia. Mi trovo così una bambina di 12 anni che consola suo papà. Ditemi voi come può sentirsi uno, e spero un giorno di poter rimediare a tutto questo, di fronte a quanto è successo. Ringrazio voi e la possibilità che ci date di sfogarci. Mi presento, mi chiamo Gennaro De Falco, sono un avvocato napoletano di 55 anni che difende, o meglio da oggi difendeva, Equitalia, da circa un anno o poco più. Conoscevo Peduto, l'uomo che si è suicidato ieri, l'immobiliarista napoletano che di recente si è suicidato dopo aver ricevuto una cartella di Equitalia. Io l'ho conosciuto nel 95 perché gli diede l'incarico di vendere la mia prima casa, ma comunque, prosegue la lettera, Questo suicidio, di cui a torto o a ragione mi sento corresponsabile, mi ha convinto a non accettare più incarichi di difesa di Equitalia. Sto anche pensando di devolvere alla sua famiglia la quota dei miei onorari quando li avrò. A dire il vero, in queste condizioni non mi sento di andare avanti. In Italia in questi anni si è messo in moto un meccanismo diabolico che sta distruggendo famiglie, persone e imprese. Non so se questa decisione servirà a qualcosa, ma almeno alleggerirà la mia coscienza. Forse aiuterà a restituire un minimo di dignità agli avvocati e a far riflettere tutti sulla sostenibilità sociale ed etica della gestione di questa crisi. Forse domani non sarò raggiungibile, sarò in carcere per una convalida di un arresto, ma la mia decisione è questa. Allora l'abbiamo raggiunto subito, l'avvocato De Falco, buonasera. Buonasera. La sentiamo un po' basso, se può alzare la voce. Sì, avvocato, al di là del fatto che lei conoscesse chi ieri si è tolto la vita, perché lei, che per un avvocato da un punto di vista deontologico è un atto molto forte, lei rifiuta di difendere Equitalia? Il codice deontologico impone di rinunciare a un incarico quando non si è convinti della giustezza dell'incarico che si persegue, quindi direi che per quella che è la mia conoscenza è un fatto obbligatorio, un fatto dovuto, non è una scelta. E perché è un fatto dovuto? Perché il codice deontologico vieta di perseguire delle cause allorché non si è convinti della propria giustezza. Ora, arrivati a questo punto, se devono verificarsi queste tragedie, la serenità viene meno. Ma lei, nella sua esperienza di avvocato di Equitalia, si è trovato di fronte a situazioni che l'hanno messa a disagio? Insomma, l'hanno... Sì, molto spesso mi sono trovato davanti a situazioni in cui vedevo le persone terrorizzate, si vedeva chiaramente un fortissimo disagio. È chiaro che le tasse vanno pagate, i contributi vanno pagati, la coesione sociale è indispensabile, però quando il meccanismo diventa troppo efficiente, all'improvviso, e per certi versi magari forse anche un pochino pressante, è evidente che poi si creano certe situazioni. Allora, se uno può scegliere, sceglie. Io, francamente, la mia valutazione è questa, cioè si renda conto, questa persona stava a pochi edifici dal mio studio, lo conosco da 20 anni, dell'età dei miei figli, è pesante insomma andare avanti. Insomma, io mi rendo conto che le tasse vanno pagate, non è questo il discorso. Il discorso è che secondo me questo sistema è un sistema senza uscita, che non può andare avanti così. Cioè non è che si può continuare un morto dopo l'altro. Non è possibile, cioè io non me la sento. Ecco, poi per carità ci saranno altri che lo fanno, io non me la sento. Ma mi scusi, ma lei come avvocato nel momento in cui difendeva a questo punto Equitalia, si trovava... i miei incarichi e poi basta. Sì, ma lei si trovava di fronte a persone che... Io non continuerò. Sì, dico, ma lei si trova di fronte a persone a cui Equitalia contestava qualcosa. Cos'è che l'ha messo così in imbarazzo? Perché non capisco. Cioè, di solito un avvocato è abituato a difendere, giustamente, cioè il diritto. Mette in imbarazzo il gesto estremo, mette in imbarazzo la reiterata condizione di disagio che si incontra ogni giorno nelle aule, mette in imbarazzo a volte l'iperefficienza e anche l'efficienza delle difese avversarie, per cui alle volte ci si trova in difficoltà etica perché giustamente c'è un mandato che va perseguito. Però poi alla fine queste cose creano difficoltà, diventa pesante, anche a me a volte è capitato di rinunciare a degli incarichi quando mi rendevo conto che si creava un conflitto, diciamo, in termini di sostenibilità etica. E arrivati a questo punto, dopo questo fatto, che è una tragedia per me, perché insomma, diciamo, è vicinissimo, io francamente ho maturato questa decisione, rispetto chi ha decisioni di tipo diverso, ma io non me la sento, tutto qua. Arrivati a questo punto penso che anche sia importante dare un segnale, perché non è possibile torchiare gli avvocati, torchiare all'infinito i contribuenti, e che si debba arrivare a una riorganizzazione, a una ridefinizione complessiva di questo problema che mi deve credere. Io vedo continuamente attorno a me una serie di persone veramente disperate. Io credo che qui siamo sull'orlo del collasso sociale. Se non si interviene, se non si cambia direzione, qui questo paese veramente finirà male. I segnali ci sono e ci sono tutti. Queste tragedie si fanno sempre più frequenti. E francamente io non me la sento, ecco, non me la sento di condividere, anche in maniera molto lata, perché poi alla fine non è che mai l'avessi mai incontrato, mi sarei astenuto se avessi incontrato qualche persona che conoscevo, se ci fossero stati momenti di conflitto, però francamente io non mi sento di condividere una realtà di questo tipo, perché onestamente è pesante, ecco, si mette nei panni, è pesante, c'è chi la fa e chi se la sente e chi no. Io non condivido. Sì, ma mi scusi, avvocato, ma è pesante difendere Equitalia? No, è pesante vivere complessivamente effettivamente una situazione di disagio sociale così forte in cui si diventa braccio necessario di una realtà che per l'efficienza che ha raggiunto diventa poi difficilmente sostenibile in termini sociali. Cioè lei dice che si trova di fronte... che il sistema fosse fatto per non funzionare. Quando il sistema ha cominciato a funzionare, in quel preciso momento ha collassato. Cioè le multe si prendevano e non si pagavano, perché tanto si sapeva che non si pagavano. Sì, ma lei capisce che un sistema non può... ha cominciato a funzionare bene e ha cominciato a determinare interessi, costi ed oneri, è diventato impossibile fare fronte. Succedono queste cose. Sì, ma lei capisce che non si può dire... le tasse... prima reggeva perché tanto le tasse e le multe non le pagavi, no? No, allora, il problema era questo. Le multe, un tempo, avevano dei meccanismi per i quali raramente venivano riscossi. Con l'affinamento dei meccanismi di riscossione, queste cose che stavano sulla carta sono diventate... il carico è aumentato in maniera spaventosa, l'efficacia dei meccanismi di riscossione si è accresciuta e questo è diventato un problema sociale. Su questo problema sociale, so che in questo contesto non lo si dovrebbe dire, ma lo dico, si sono andati a instaurare anche delle riforme che hanno reso anche di fatto insostenibile per gli avvocati portare avanti queste cose. E quindi allora a questo punto chi può fare un passo indietro? Ma lei ha avuto la sensazione, per concludere, insomma, di avere di fronte delle persone che non avrebbero retto il colpo rispetto alle richieste? Sì, molte volte. L'ultima volta in un'udienza ho visto un avvocato semitremante, le mani gelate, sudatissime, e gli ho detto: Dio santo, questo secondo me qui ci rimane in aula. E allora a quel punto uno comincia a chiedersi, ma non una volta, più volte, molto spesso io vedo le persone veramente in una condizione di forte disagio emotivo, di forte disagio economico, di forte disagio psicologico, e pesa, le posso garantire, pesa. Grazie all'avvocato Gennaro De Falco, un buon 25 aprile a tutti voi in ascolto, Focus Economia torna domani dalle 17 in poi, l'augurio di una buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24, la passione si sente.